Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Amore mio, per te farei di tutto, lo sai. E tu, invece, ti faresti tutti. Ho sempre cercato di proteggere il nostro amore, e invece tu l'hai distrutto. E dopo 7 anni di matrimonio, voglio raccontare a tutta Italia il tuo spregevole tradimento. Lucia è il tuo nome, e per anni hai portato la luce nella mia vita, ma non conoscevo le tue ombre. E da quando ti ho vista con lui, che ti baciavi davanti a quella diavolo di pasticceria, la nostra preferita, è arrivato solo il buio. Mia moglie e un altro uomo avvinghiati dentro una macchina come amanti in incognito. Così segue la frase della lettera d'amore più tragica, più disperata, più sofferta che abbia prodotto il nostro secolo, che oggi è apparsa in un'intera pagina a pagamento sul Corriere della Sera. Ne stanno parlando tutti, si è subito aperto un gruppo di solidarietà in rete nei confronti di questo povero uomo che noi chiameremo il tuo ex marito, che tutti vorrebbero conoscere, ma lui all'inizio si è schernito, ha detto che mai avrebbe parlato con giornalisti, non voleva rilasciare nessuna dichiarazione, ma per una felice quanto, ahimè, sfortunata circostanza, siamo legati da un vincolo di amicizia da diversi anni, quindi l'ho rintracciato e questa mattina l'ho accanto a me perché racconti con la sua viva voce la storia. Naturalmente avrei voluto farlo parlare in diretta, ho registrato perché ha la voce rotta dal pianto, ma è qui accanto a me, potete sentire la sua presenza vicino a me in questo momento. E vediamo di sviscerare quella che è una storia che io, che passo sempre persona cinica, persona che ama irridere tutto ciò che ricorda degli apparati tradizionali, l'amore, la famiglia, beh, di fronte al dolore di quest'uomo che, ve lo dico, e questo è un dato inedito rispetto a quello che è già uscito sulle agenzie di stampa, sto uscendo nei siti dei maggiori giornali, si è veramente impegnato anche la camicia per pagarsi questa pagina sul Corriere della Sera. Costa molti soldi fare una pagina a pagamento sul Corriere della Sera, ma lui l'ha fatto in un disperato tentativo, non come molti stanno dicendo, di svergognare la donna che lo ha tradito, ma di dare a lei un ultimo disperato appiglio per poter ritrovare quest'uomo che tutto ha dato per questa donna e è stato così amaramente ripagato. Mia moglie e un altro uomo avvinghiati dentro una macchina, come amanti in incognito. Ma invece di dirtelo subito, ho indagato. E in un mese, 31 giorni per l'esattezza, ho scoperto che c'era dell'altro ancora. E soprattutto degli altri. I martedì con le amiche a cena avevano un fuori menù speciale, diciamo, perché non erano che uno squallido teatrino di amanti. Tu e i tuoi amici. 800240024. In questo momento quest'uomo ha bisogno soltanto di una cosa, di sentire delle persone accanto a lui, attorno a lui. Tutto stanno dicendo lui in rete, qualcuno dice addirittura che fa parte di una triste operazione di viral marketing, come se lui dovesse fare pubblicità. E chi si presterebbe a fare pubblicità mettendo in piazza una storia così dolorosa? Una moglie che con un intento preciso, calcolato, con la complicità delle amiche, lo ha tradito ripetutamente, in maniera compulsiva, in maniera vigliacca. Una novella Pasifae, il personaggio mitologico che fece costruire un simulacro di vacca entro dentro per farsi coprire da Giove, da Zeus, trasformato in toro. Pensate quanto c'è di tragico, di profondo, di antico in questa storia. 800240024. Chi può dire qualcosa al nostro Enzo? Intanto Achille Correa, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Achille Correa, il collega questa mattina mi aiuta in questa disperata, quanto secondo me importante opera di riabilitazione, se non sociale e psicologica, del povero Enzo. Achille Correa è uno sceneggiatore, è un conduttore radiofonico, è un esperto naturalmente in pubblicità virale e in internet e adesso è davanti a Facebook e mi sta dando il polso di quello che sta accadendo in rete attorno alla storia del povero Enzo. Beh, come sempre, diciamo, internet non è un corpo unico, non c'è un solo popolo della rete, ma qui ne distinguiamo due. Diciamo che da una parte ci sono gli esperti, i social media manager, quelli che i saputoni che dicono è tutto finto, eccetera, che hanno già, diciamo, scritto articoli, hanno già diciamo sviscerato la vicenda dicendo è un fake, non è nulla di vero, è una campagna per orchestrata. Scusa, senti, dico una cosa, vero. Achille, se non ce l'avessi qui accanto, se non avessi la spalla già inzuppata dalle sue lacrime, anch'io direi che è finto, ma è vero, è in carne ed ossa, è accanto a me che trattiene i singhiozzi. Possiamo dare questo conforto, il vero popolo che c'è sul web, per le persone vere, quelli che hanno il profilo su Facebook per condividere la loro vita, per mettere le foto dei loro gatti, per parlare delle loro piccole vicende quotidiane, sono tutte con Enzo, scrivono messaggi sulla sua pagina, hai fatto bene, lo incitano anzi a fare di più, c'è chi scrive se hai dei filmini, metti anche dei filmini della tua ex moglie. Ti leggo un messaggio che mi è appena arrivato da Vittorio, sempre sul profilo Facebook di Enzo. Mi dispiace, solidarietà maschile, gli uomini finalmente si ritrovano il senso della loro virilità, uniti tutti contro questa donna. Mi spiace, mi auguro solo che la vaginolabile, guarda che bel tema poetico per descrivere una donna che ha così vilipeso la categoria delle mogli, non abbia procreato in questi 7 anni, in quanto i piccoli innocenti pagherebbero anche loro. Per il resto, in bocca al lupo Vittorio, in bocca al lupo Enzo. Molto bene, e allora racconto tutto. Come quel viaggio che ti ho spinto a fare io, perché eri stressata per il lavoro. Hai preso un aereo da sola per raggiungere le amiche di Roma, dicevi, quelle che non conoscevo, con gli agganci per la vacanza low cost in Egitto. E io scemo a crederci. Era solo il primo dei tuoi tradimenti. Te l'ha pagata l'avvocato quella vacanza. Come ho fatto a non capire? Non sapevo ti piacessero i ricchi. E infatti mi sa che ti piacciono tutti, dalle foto che c'erano sul tuo computer. Posso darvi qualche indicazione di più per capire chi sia Enzo? Un povero ragazzo che viene dalla terra salentina, terra ingrata, terra arida, che per tutta la vita si è mantenuto raccogliendo le olive, vendendo le friselle al mercato. Arriva a Roma finalmente, consapevole che quella sarà la sua fortuna, e trova la donna alla sua vita e la ama come fosse una principessa. E lei alle sue spalle, naturalmente socialmente più elevata, economicamente più avvantaggiata, ne fa il suo zimbello, facendosi tutti i suoi amici. 800240024. Qualcuno ha una parola per quest'uomo? Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Una parola, io volevo dire che ha avuto coraggio. Questa è un'altra forma di coraggio che ha avuto di impostare quello che pensava su carta scritta. Guardi che lui è stato durissimo, e veramente gli è costato 3 mesi del suo stipendio questa pagina sul Corriere della Sera. Immagino, guarda, ha avuto coraggio e complimenti, perché molti reagiscono in altro modo. C'è chi mette le mani, chi va chiamata, chi fa cazzata, lo sappiamo. Lei cosa avrebbe fatto per una donna che la tradisce con tutti i suoi colleghi e tutti i suoi amici, con la complicità delle amiche? Guardi, io sono obiettivo. Gli do un bel colpo, come dico io. Cioè l'avrebbe uccisa? Essendo lui, no. Oppure lascio perdere. Cioè o la uccide o la dimentica, la cancella dalla sua vita. Sì, esatto, sono cose un po' complicate sinceramente. Guardi, ma io conosco Fabio è un uomo troppo mite, non sarebbe capace nemmeno. Lei pensi che quando cammina lui sta attento a non schiacciare le formiche, quando vede un formicaio gira, pensi che uomo che è, e potrebbe lui uccidere una donna, anche se lo ha fatto molto soffrire. Grazie Cesare, esprima la sua solidarietà, è qui che l'ascolta anche se non vuole parlare, dica qualcosa a Enzo che l'ascolta. Cesare. Fabio. Chiedo scusa. Dica qualcosa a Enzo. Ascolta, tirate su, dimentica, spero che non abbiate figli e se sono grandi... No, non hanno figli, non hanno figli, per fortuna non hanno figli. Allora anche perché la moglie, questo lo devo dire, aggiungo, a Enzo... Era anche avara di quell'amore che lui bramava, se no ci si accoppiava una volta ogni 3 mesi, sempre di fretta e sempre nei momenti che decideva lei. Guardi, dimentica Enzo questi anni passati con questa donna, e non uso termini pesanti perché è una... E speriamo che si trovi una brava ragazza, la ringrazia, è qui vicino a me, la ringrazia. Cesare, buongiorno Cesare, lei cosa da dire al povero Enzo che qui accanto a me piange? Molto velocemente, io penso che sia un discorso collegato all'emancipazione femminile da tanti anni a questa parte, per cui bisogna un attimino ridimensionarsi e non pensare più a un concetto di amore puro infinito. Ridimensionarsi, Enzo, lo posso dire, era già molto scarso anche come dimensioni, e questo glielo rinfacciava continuamente la moglie. Pensa anche questo problema, che è un problema fisico, ci si nasce, e anche questo gli veniva rinfacciato ogni giorno. No, chiedo scusa, sto parlando io, vero Cesare? Sì. Ecco, no, io dico semplicemente che ci sono delle predisposizioni femminili come quelle maschili, persone che hanno bisogno di più contatto materiale che spirituale, quindi non bisogna nemmeno colpevolizzarle più di tanto. È chiaro che però bisogna accettare. Cioè, lei vorrebbe arrivare alla conclusione: la moglie era ninfomane, quindi No, io non parlo di ninfomane, perché diciamo che le esigenze sessuali anche di tantissimi maschi, oggi come oggi, sono diventate anche esigenze sessuali. Ma il povero Enzo sarebbe bastato una volta al mese, un atto tenero. No, il discorso non è che non aveva abbastanza sufficienza amore sessuale da parte di suo marito, è che questa piccolo, persona, come qualsiasi persona maschile e femminile, ha delle esigenze sessuali che una volta forse erano represse anche per cultura, la religione, la famiglia. Oggi come oggi parte già dai giovani ragazzi, fermami un attimo, sta scadendo un dramma in studio, mandiamo il traffico un attimo, sentiamo fra un istante. Melog, cronache meridiane. Sì, ho frugato nel tuo computer e ho scoperto del personal trainer e della settimana di lavoro a Milano, che in realtà era solo una romantica avventura con Real Macho, quel tizio con cui chattavi. Ma che nome è? Ma che persona sei tu? Immagino che insieme avrete vissuto tutte le sfumature dei colori dell'amore, dei sapori. Ma la cosa peggiore, Lucia, è la becera storia che ti stai facendo ora, con tu sai chi. Vedo che ti sei trovata bene con i miei colleghi. Se vuoi, te ne presento altri. A che punto può arrivare la disperazione di un uomo che si vede improvvisamente tracollare tutto l'universo che lui ha faticosamente costruito in anni? Questa è la vicenda del povero Enzo, ragazzo semplice, povero, della più abbandonata e reietta regione Puglia, cioè della provincia più reietta della Puglia, in cui soltanto viveva mangiando pane e olive, friselle e olive. È salito verso Roma, ha trovato la donna nella sua vita, l'ha amata, e l'ha tradito con una forma di sadica insistenza con tutti i suoi colleghi. Lui cosa ha fatto? Lui si è impegnato tutti i soldi che aveva, i suoi mesi di stipendio sudati per comprare un regaluccio alla moglie, che si negava a lei persino anche sul piano fisico, e ha comprato un'intera pagina pubblicitaria del Corriere della Sera. Oggi tutti ne stanno parlando, tutti i siti, tutti i grandi giornali, tutti gli opinionisti, tutti i moralisti, tutti i filosofi, tutti i politici parlano soltanto della vicenda di Enzo Tradito, e noi lo abbiamo in studio. Siamo riusciti a farlo parlare e sottoponiamo il suo dramma ai nostri ascoltatori. Intanto Achille Corea, che sta osservando quello che è l'effetto virale in rete della vicenda di Enzo. Achille Corea. Sì, io continuo a confortare Enzo sull'ondata di solidarietà che c'è nei suoi confronti, nonostante appunto alcuni tentino di frenarla parlando insomma di fake, di pubblicità. Le persone sono con lui, c'è questa commentatrice sulla sua pagina Facebook che dice, cioè racconta questa scena poetica, che lei ha iniziato a leggere questa mattina in treno la lettera e poi ha alzato la voce e l'ha letta a tutto il vagone, a tutto lo scompartimento che solidarizzava con Enzo e lo incitava a non mollare e a farla pagare alla sua ex moglie. Aspetta, generale, Enzo, hai capito? Nella tratta Bari Molfetta tutto il vagone è con te e ti ha seguito. Puoi dire qualcosa? Non se la sente di parlare, però ecco accanto a me, lo sentite, la voce rotta dal pianto, però questa sua commozione è il riscatto che esiste un paese vero, esiste un'Italia che crede nei valori, crede nella famiglia, crede nell'amore, e l'Italia si ribella di fronte a questa donna che ha definito, con un termine di cui mi prendo la responsabilità di condividere, un ascoltatore, vaginolabile. Questa donna vaginolabile ha fatto così male Enzo, e noi siamo tutti con Enzo. Marco, buongiorno. Marco, ce la fai a parlare? No, Antonio. Antonio, eccomi. Sì, pronto, salve Nicoletti, buongiorno. Guardi, questa situazione, questa notizia personalmente mi ha molto colpito, però volevo esprimere ovviamente, volevo esprimere ovviamente la mia solidarietà ad Enzo e dire che dal mio punto di vista in questo momento Enzo non ha bisogno solo della solidarietà delle persone che lo amano, ma ha bisogno anche di un familiare, di un amico, di solo al mondo, che Enzo, abbia, solo al mondo. Che abbia in Enzo non momento... ha mai avuto un padre, diciamo, non ha mai avuto un padre e la madre è morta molto giovane e quindi è stato solo al mondo, allevato da uno zio cattivissimo che ha sempre sfruttato, l'ha fatto lavorare come una bestia. Enzo non conosce il calore dell'affetto, questo dovete capirlo. Guardi, sono molto dispiaciuto di nuovo per questa nuova notizia. Le dico, ci vuole un amico, ci vuole qualcuno che abbia la freddezza di fare, di mettere la moglie veramente nelle condizioni di dover risarcire. Comunque, io sia con me, non possibile che telefono soltanto uomini. Non c'è una donna impietosita che dica: Enzo, vengo io, ti sto accanto, ti offro una spalla su cui piangere, ti do la mano nella mano. Sono anche disposta a farti conoscere quelle gioie dell'amore e del sesso che tua moglie ti ha sempre negato. Ci fosse un'ascoltatrice in questo momento che si sente vicino a Enzo, soltanto uomini. Andiamo avanti, fra noi uomini, finalmente uniti per difendere uno di noi. Antonio. Antonio? Sì, pronto? Sì. Senta, ecco. Ah, Antonio, assolutamente... scusate, sono Giacomo, Giacomo. Eccomi qua. Come la pensi? Come la penso? Guardi, allora, io sono assolutamente solidale con questo povero uomo, anche perché ho vissuto la medesima esperienza. Ascoltando la radio, ma avevo i brividi, perché realmente ho sulle mie spalle vissuto la stessa idea. Ecco, Achille Corra, senti... C'è ancora chi mette in dubbio queste cose accadano. Abbiamo qui in diretta uno scoop, un uomo che ha vissuto la stessa vicenda di Enzo. Cosa ne dice, Achille? Che sono tanti in rete che stanno usando questa pagina, che ricordiamo è la pagina lanciata dalla lettera sul Corriere che è tuo ex marito su Facebook, e in tanti stanno condividendo, stanno raccontando il modo in cui hanno scoperto un tradimento, il modo in cui hanno lasciato una moglie o un marito. Cioè, beh, facciamo popolo, sentire il culmine, la parte più forse commovente, più drammatica di questa lettera. Il nostro matrimonio è finito, ti lascio, ma non immaginarci qui da soli, io e la mia ossessione di te che mi hai tradito con tutto il mondo. Io non tornerò indietro, hai sbagliato tu, e non mi vergogno a raccontare a tutta Italia la vita segreta della mia mogliettina perfetta. Anzi, ho persino aperto una pagina Facebook, io e te ci vediamo in tribunale. Il tuo ex marito, Enzo. Velocemente, Maurizio, la tua testimonianza, molto veloce, stiamo sì. chiudendo, purtroppo sì, vorrei sì, avere a disposizione tutta la giornata, ma non basta, fra poco devono andare le sì. notizie. Io volevo dare un po' di sostegno a Enzo, perché la mia storia è quella che forse lei ha già sentito dai suoi collaboratori. Cosa le è successo? Io dopo 24 anni di matrimonio, ovvero sia a 2 mesi dalle nozze, diciamo, d'argento, ho scoperto che mia moglie mi tradiva col marito della mia sorella. Ma pensi un po', in famiglia. E allora, il bello è questo, non solamente questo, c'era un ragazzo, un figlio più grande, uno più piccolo, minorenne, dopo 2 mesi lei mi ha portato anche mio figlio e io ho cresciuto. Che fosse figlio addirittura del marito e sorella. Elena, velocemente, Elena, l'ultima battuta, una donna finalmente, perché non avete chiamato sì. prima? Sarebbe stato tanto utile per Enzo sentire la voce non di una donna. Volevo vabbè, dire che mi dispiace per Enzo, io credo nella fedeltà, ne ho fatto una scelta di vita, però vorrei anche ricordare tutte le donne che ogni giorno subiscono questo. Bene, grazie, grande Elena, uomini. Grande Elena, grande Elena. L'ultimo contributo prima di chiudere questa trasmissione. Elena crede nella fedeltà, dà un messaggio alle donne, siate fedeli. L'ultimo tragico, drammatico contributo. Donne fidanzate. Tutto questo stava incominciando a starmi stretto. Uomini sposati. È stata la prima volta che ho detto: mannaggia, sono sposato. E c'è una cosa che accomuna tutte queste coppie. C'era qualcosa che non mi convinceva. Il tradimento. Ci saltavamo letteralmente addosso. Poi io la salutavo. Sì, abbiamo scherzato, non è vero niente. Enzo non c'è, è un nostro collega. Come non è vera la pagina sul Corriere della Sera su cui tutti oggi stanno scrivendo. È la pubblicità di un programmetto televisivo che andrà lunedì sul tradimento. Si può scherzare sul tradimento? Il Corriere della Sera può mettere una pagina di pubblicità passata come una lettera vera, possono tutti crederci, quindi ci avete creduto anche voi questa mattina e ci è piaciuto farvelo credere che in realtà il mondo dell'informazione spesso è il mondo della distorsione di ogni realtà. A lunedì.